con Claudio Storani per parlare di Lazio a tutto schermo, che è partita il 12 novembre in 15 sale in 15 città. Claudio, ben trovato. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Eccomi. Allora, raccontiamo intanto quest'iniziativa a tutto schermo, parlacene un po'. A tutto schermo è un'iniziativa che porta avanti, diciamo, il discorso della rete degli spettatori, che è quello di sostenere al tempo stesso i film italiani nelle sale cinematografiche andando verso lo spettatore. Quindi in questi anni, in questi 6 anni, abbiamo nel Lazio creato una collaborazione con appunto la Regione Lazio e con il MIBAC, che ci sostiene in questa avventura autunnale fatta in 15 sale da 2 anni. Siamo in 15 sale, ogni sala ospiterà 3 proiezioni, affiancate in molti casi dall'autore o da qualche interprete del cast artistico, e presenteremo il meglio del cinema italiano d'autore di qualità uscito nelle sale negli ultimi, diciamo, 3-4 mesi, insomma, ecco, nell'ultima parte della stagione. Quanti sono i titoli inseriti? Ma i titoli sono parecchi, perché poi alla fine lasciamo sempre ampio spazio all'esercente, perché riteniamo che ormai da anni gli esercenti che resistono, quelli più in gamba, hanno ormai aperto un dialogo con i loro spettatori, quindi conoscono bene il territorio in cui lavorano. I titoli in tutto sono 18 e spaziano dalla commedia, come Troppa Grazia, Beate o Tito e gli alieni, a documentari come 1938 Diversi, bellissimo documentario di Treves, a La strada dei Samuni, a film più drammatici come Manuel, oppure come lo stesso Menocchio o Sembra mio figlio di Costanza Quadriglio. Come sono distribuite queste 15 sale tra città e provincia? Cercato di mantenere sempre un po' in equilibrio. Allora, Roma ci deve essere, perché insomma il Farnese, noi collaboriamo da anni col Farnese, lo facciamo, è sempre stato il nostro punto di riferimento. Poi sono distribuite un po' in tutto il territorio, nel senso noi andiamo da Viterbo a Civitavecchia, a Tarquinia, poi passiamo per Rieti, passiamo per Latina, poi ci sarà la parte dei Castelli con Grottaferrata e Genzano, poi ci sarà Viterbo, ci saranno Cerveteri, Manziana, poi saremo sul lago, quindi Bracciano, e queste sono un po' le sale, e poi in più ci sarà Civitavecchia, appunto, che chiuderà un po' il cerchio di questa attività. Sono sale diverse, perché passiamo appunto ad esempio da Rieti, dal multisala moderno, multisala composito importante, a sale più piccole, appunto, come ad esempio la sala di Manziana, che è una piccola sala gestita in collaborazione dal comune e dagli esercenti privati, che è più un presidio culturale su un territorio che una normale sala cinematografica che fa una programmazione per tutto il giorno. Lazio a tutto schermo, fino a che data sarà? Allora, noi siamo partiti da qualche giorno, andrà avanti fino a, diciamo, il 20 dicembre, perché appunto per inserirci nel calendario delle varie sale cinematografiche faremo questo slalom attraverso la grande programmazione dell'autunno. Andremo avanti fino al 20 dicembre, e in più, collegata a questa iniziativa, e questo ci tengo molto, c'è il premio allo spettatore. In tutti questi anni di cinema abbiamo visto premiare gli autori, abbiamo visto premiare i tecnici, abbiamo visto premiare chi il cinema lo fa. In questo caso invece noi premieremo chi il cinema lo vede, perché il cinema italiano ha bisogno di avere degli spettatori, premiare e sostenere quegli spettatori che oggi diventano, come posso dire, dei testimonial importanti per questo nostro cinema, questa nostra produzione così importante, che però riesce difficilmente a trovare spazio in sala. Attraverso un meccanismo molto carino che troverete sui nostri social, la nostra pagina Facebook o sul nostro sito internet, gli spettatori andranno in sala, parteciperanno, vedranno i film, poi faranno delle piccole recensioni. La recensione che aveva preso più like, l'autore vincerà il premio allo spettatore. E questo perché appunto ci preme, essendo la rete degli spettatori, stare sempre dalla parte degli spettatori. Ecco, proprio a questo proposito, ci dai tutti i riferimenti web per seguire il calendario di programmazione? Sì, noi abbiamo il sito internet, chiaramente, che è www.rededegliespettatori.it. Poi abbiamo una pagina Facebook molto ricca, che è appunto la pagina della rete degli spettatori, e poi siamo anche su Twitter e su Instagram, e su Instagram lo segnalo particolarmente ai ragazzi, abbiamo anche un account Instagram dove verranno messe poi tutte le foto delle serate spese con gli autori, con gli ospiti, con i critici e con gli spettatori soprattutto che partecipano alle nostre iniziative. Ecco, a questo proposito, le attività della rete non si limitano a quest'autunno-inverno, questo mese e mezzo del Lazio a tutto schermo, giusto? No, la nostra attività va avanti tutto l'anno, fondamentalmente noi partecipiamo a tante altre iniziative, ad esempio un'iniziativa importante è quella lì che facciamo con, adesso saremo impegnati con il Festival di Porretta, con cui siamo partner da tempo. L'altra cosa è quella del altre iniziative, ad esempio sono le iniziative con le scuole che non le iniziative con le scuole che portiamo avanti da tempo dedicate alla promozione del cinema italiano con le mattine scolastiche. Noi abbiamo, adesso abbiamo un progetto molto bello che si chiama Diventa Spettatore e riguarda la formazione degli studenti. Quindi diciamo noi andiamo avanti appunto tutto l'anno con le nostre iniziative di promozione e di collaborazione e di formazione, ecco. E allora ricordiamo l'appuntamento con Lazio a tutto schermo, è cominciata il 12 novembre, andrà avanti fino al 20 dicembre, 15 sale, 15 città. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Storani di Rete degli Spettatori che cura l'iniziativa. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. E credi il lupo e viva il cinema italiano.